Ma mi è sembrata più che altro una zitella isterica in crisi d'astinenza. Il livello della dialettica politica espressa da Pulvirenti si qualifica da sé, non devo aggiungere altro perché siamo tutti capaci di qualificare questa cosa. Le scuse le posso anche ricevere, però l'umiliazione è stata tanta, ho subito tanti danni, insomma non lo so sinceramente se potrei accettare le sue scuse. Tutti convocati di Carlo Genta. Lance won those races, but I mean that aside, it's to compare me with Lance. I mean Lance cheated. I'm not cheating. End of story. Buon pomeriggio a tutti. In the shadow, nell'ombra. Abbiamo sentito la telecronaca storica del 9.58 di Usain Bolt, secondo Tyson Gay, e resta solo la testa coronata di Usain Bolt per l'atletica al momento. Abbiamo sentito Chris Froome che si difende, si è difeso ieri in conferenza stampa. Io non sono come Armstrong, io lavoro, io non paragonatemi a lui. Eppure il sospetto, quel sospetto è la madre di tutte le domande. Per la serie Grandi Gialli dell'estate nello sport non c'è nemmeno bisogno di allegare dei libri ai quotidiani, le storie si scrivono da sole attraverso la cronaca, direi. E giallo come gli occhi di Ben Johnson, ricorderete quella famosa dichiarazione di Carly Lewis, no? Lo guardai sulla linea di partenza prima dello sparo delle Olimpiadi, vidi i suoi occhi gialli e capì che il bastardo l'aveva fatto di nuovo. Giallo come la maglia gialla di ora di Froome, prima di Lance Armstrong, e anche cromaticamente la tappa dell'altro giorno. Ci ha fatto male nell'anima perché sembrava di vedere, non so, anche i colori erano gli stessi. Incapi o Landis o chi volete voi tra i primi soldati scelti di Armstrong e lo stesso Lance. L'altro giorno era Richie Porte, il tasmaniano che è andato fortissimo e che ha trainato sulle prime rampe del Mont Ventoux, Chris Froome che poi è scattato come se fosse in discesa. Ebbene, oggi che sappiamo che Tyson Gay ha preso sostanze proibite, che sospettiamo di Asafa Powell, che insieme alla sua collega oggi è, diciamo, scappato dall'Italia, ebbene oggi sulla Gazzetta dello Sport, nel cuore della Gazzetta dello Sport, nel cuore rosa della Gazzetta dello Sport, c'è la madre di tutte le domande. Crederci ancora? Il cuore della Gazzetta dello Sport è Franco Arturi, vice direttore. Ciao. Ciao a tutti. Lo chiedo per primo a te, che scrivi oggi questo fondo estremamente importante. Crederci ancora? È una risposta problematica che ne ha diverse uscite. Crederci ancora nello sport in quanto tale, non solo non possiamo evitarlo, ma è estremamente importante che lo sia, perché lo sport è una manifestazione al centro della cultura dell'umanità da molte migliaia di anni. Credere ancora in alcuni risultati, qui il problema è enorme e il discorso non è tanto se Froome abbia o non abbia percorso la strada di suoi illustri predecessori. La novità vera è che all'indomani di una grande vittoria si dubita. Questo non era mai accaduto, perché sia noi testimoni professionali sia il pubblico intanto celebra, intanto si entusiasma, intanto inneggia e poi semmai si fa qualche domanda o aspetta l'esito del controllo antidoping di turno. Questa volta no. E questo io credo sia il punto di svolta della percezione del pubblico dello sport di alto livello. Questo è perfetto, ma che Franco Arturi sia un principe dei giornalisti lo scopriamo oggi. Il nocciolo della questione è questo. Prima prima si celebrava, no? Si guardava con gli occhi del bambino alle grandi imprese sportive. Oggi si guarda le grandi imprese sportive con gli occhi dell'adulto, un po' cinico, forse se vogliamo un po' segnato dalla storia recente, e questo è davvero il punto di svolta. Direttore, io ti chiedo un attimo di pazienza per il traffico e poi ovviamente vorrei approfondire altri 5 minuti con te questo argomento, che voglio poi approfondire con gli ascoltatori. 800 24 00 24, numero verde per le vostre chiamate, 349 238 6666. Insomma, vi aspettiamo qui dopo il traffico. Per come ha vinto, possiamo dire che ha impressionato, ha letteralmente impressionato Chris Froome. Tutti convocati. Allora, torniamo sempre con noi Franco Arturi, vice direttore della Gazzetta dello Sport, in un giorno brutto ma importante, no? In un'estate brutta ma importante per lo sport. E il nocciolo della questione è quella che il direttore ha individuato e di cui ha scritto oggi sulla Gazzetta, cioè oggi prima si sospetta e poi si valuta, poi si vede e poi si aspetta soprattutto. Si aspettano i risultati di quelle dannate provette. Io ti posso fare una confessione, direttore? La faccio pubblicamente. Prego. La faccio pubblicamente perché non ho vergogna di questo. L'altro giorno, quando ho visto Port e Froome su quelle prime rampe, il parallelo che ho citato prima, anche cromatico se vuoi, in maniera molto perversa, con i postini della US Postal, ricorderai quelle magliette, bene, queste di Sky un po' assomigliano. Ho visto Port, ho visto Froome, primo e secondo di quel gruppetto, tirare a tutta e insomma quell'idea mi è venuta. Cosa devo farci? È inevitabile, sarà successo a molti, presumo. Sì, adesso, passando all'atletica, resta solo la testa coronata di Usain Bolt e poi sarebbe davvero rivoluzione o tragedia, come preferisci. Ma c'è da non credere alla volontà espressa in modo pubblico e fermo delle grandi istituzioni sportive che possano efficacemente loro combattere il doping. Se qualche tifoso si illude che superare i controlli antidoping sia un passaporto per la legalità, si ricordi che Armstrong ne ha superati positivamente molte centinaia ed era, come si dice scherzando, pieno come un uovo. Il cambio di passo va fatto nella direzione di un'agenzia terza che sia svincolata dai comitati olimpici, dalle federazioni nazionali, da quelle internazionali e dal CIO. Sono tutte istituzioni che in un modo o nell'altro, o in modo diretto qualche volta disgraziatamente, o con comportamenti elusivi, omissivi, pensiamo a quello che sta succedendo da 15-20 anni in Spagna, hanno di fatto avallato il doping, che poi interessa, intendiamoci bene, sui grandi numeri, una quantità piuttosto ridotta di atleti. Ecco, non posso pensare e non crederò mai che il quinto, sesto, il terzo, il secondo della finale dei 100 metri dei campionati italiani assoluti abbiano confidenza con gli ormoni anabolizzanti. Quindi in realtà un'agenzia internazionale, un'operazione di intelligence, un collegamento con i governi nazionali che siano dotati di leggi adeguate, come per esempio quella che c'è in Italia, possono farci ripartire e ricostruire una credibilità che al momento è svanita per quanto riguarda lo sport di vertice. Speriamo sì, che le parole di Froome siano corrette. Le abbiamo sentite nella stessa identica tonalità per anni e anni da tutti gli Armstrong della Terra. Bravo. Per cui la nostra speranza è appesa a qualche filo. È appesa a qualche filo, no, è appesa all'amore che abbiamo per questo gioco in senso lato che è lo sport, che poi un gioco non è, ma è un grande business, è un grande affare economico e, come dici tu, in maniera assolutamente corretta, insomma, bisogna svincolare le agenzie, gli organismi antidoping nazionali di tutti i paesi del mondo dai rispettivi comitati olimpici, perché altrimenti è come il figlio che è sempre economicamente dipendente dal genitore, no? Non cresce mai e quindi non può fare la sua vita e non può arrivare a risultati. Ma c'è un'evidente contraddizione del controllato controllore. Ma la medaglia in più e in meno, magari in una gara soldi di marca, contribuisce a rendere positivo o negativo il bilancio di un ente intero, di un comitato olimpico intero, italiano, francese, spagnolo. Sì, e tedesco, quindi voglio dire, addormentarsi qualche volta ha un senso. Direttore, un'ultima cosa. Oggi scrivi anche, ricordi anche come il doping sia da sempre il compagno, anche qui perverso, dello sport. Dalla stricnina di Dorando Pietri, che magari qualcuno queste storie non le sa, non se le ricorda, deve rinfrescare la memoria. Alla simpamina di Coppi, al doping di Stato del vecchio extraeuropeo. Su fino sì, a dove può, vogliamo, fino a oggi o fino può a domani. Si può risalire anche di alcune migliaia di anni, perché ricordavo come Galeno a sua volta ha testimoniato che gli atleti dell'Olimpiade classica, quella proprio di Olimpia, usavano stimolanti per migliorare le prestazioni. Notizie del genere abbiamo dal mondo dell'antica Roma, dai cavalieri che giostravano nel Medioevo. È una costante, perché la via di fuga, il desiderio, lo sport è qualcosa che oscilla fra rito e record. Ci sono grandi saggi sociologici, purtroppo non di attori italiani, su questo tema, quindi lo sport è sempre proiettato verso l'avanti. Che cosa è cambiato proprio negli ultimi 50-60 anni? La percezione del pubblico, la piena consapevolezza che il doping è male per l'individuo, cioè la sua salute, per la collettività, cioè le istituzioni sportive e le regole che vengono infrante, e per le istituzioni in senso lato, e fra queste ci siamo anche noi pubblico, anche noi media e gli sponsor. E quindi si è innescato un grande cortocircuito, che è quello in cui siamo caduti oggi: da una parte la consapevolezza che quello è il male, o meglio un reato, e dall'altra una diffusione massiccia. Direttore, io ti ringrazio come sempre, e nel ringraziarti ti prego di lasciarmi il mio pessimismo. Anche qui faccio una confessione pubblica: ognuno ha diritto alla presunzione di non colpevolezza e ognuno ha diritto anche di essere pessimista quando vuole, io lo sono. Beh, anche questo è un segno dei tempi. Buon proseguimento di trasmissione. Ciao direttore, grazie di tutto. Franco Arturi, vice direttore della Gazzetta dello Sport, e adesso voi 800 24 00 24. Allora, Paola da Genova, Carlo da Bergamo, Salvatore di Forlì, i primi tre nell'ordine. Poi vi racconto anche di altre cose, poi vi racconto anche storie di spagnole, di Ancelotti sul campo di Valdebebas insieme a Zidane. Questa è una suggestione bella, ovviamente bella, se vogliamo, anzi vogliamo di certo. Vi racconto anche di un'altra confessione, non mia, ma di Bobo Vieri, che oggi ha detto, per quel che può importare a qualcuno, lo confesso, sono juventino fino al midollo. La Juventus è la mia squadra del cuore. Paola, buongiorno. Ciao Carlo, felice per la convocazione, proprio un bel ricordo, grazie mille. Con tanta stima, una veloce guarigione. Ma grazie Paola. Guarda, una cosa, beso. Hai detto di Bobo Vieri, io e Bobo Vieri purtroppo facciamo gli anni lo stesso giorno, quindi ma hai detto ma dai, un attimo li hai appena fa. Compiuti, auguri. Guarda, grazie mille. Hai fatto anche tu la festa. Hai avuto tempismo perfetto. Hai fatto anche tu la festa a Formentera? No, io non l'ho fatta a Genova, però insomma me la sono cavata lo stesso, va? Però un anno in meno, quindi sono più contenta, diciamola così. Va chiaro che sì. Senti, ma tu ci credi allo sport di oggi? Ci credi ancora? Guarda, sei ottimista, Carlo, o pessimista? Dimmi. Io purtroppo no, perché a livello amatoriale tempo fa avevo un ragazzo che faceva proprio le gare di mountain bike, che sinceramente c'era già proprio molto, era molto radicato già lì il doping, quindi questo è molto triste, però se già a livello amatoriale era molto radicato, sinceramente so è bruttissimo, una cosa ma lo molto so perfettamente brutta. a livello amatoriale, e lo sappiamo, appunto, perché anche qui non svegliamo nessun segreto, lo sanno tutti, è il famoso segreto di Pulcinella, certo. si fanno le bombe a livello amatoriale, certo. E ogni tanto qualcuno ci resta secco, però non è che finisce sulle prime pagine dei giornali. Assolutamente no, è molto ma brutto, poi... terribile. Ciò che è peggio a livello giovanile, dove anche lì usano spesso con l'orrenda, inqualificabile, non mi viene un aggettivo, connivenza dei genitori, anche certo. Ed è molto difficile stanarli, perché ovviamente le risorse sono quelle che sono. Certo. Ovviamente. Certo. Paolo, certo. Senti, io ti mando di nuovo gli auguri, un bacio, grazie per i complimenti e ci risentiamo presto, sei sempre convocata tutti i giorni. Io di corsa passo a Carlo da Bergamo, perché sono molti gli ascoltatori di oggi, come sempre vi ringrazio di rispondere a questa convocazione su Radio 24. Carlo Bergamo, buongiorno, mio omonimo. Buongiorno signor Carlo, tifoso atalantino, complimenti sì. per la trasmissione. Grazie, io non posso fare i complimenti alla tifoseria atalantina per quel carro armato. Lo sapevo, il telefono per quello, perché è la solita informazione del cavolo che fate abitualmente. Ci sono due cose da dire. Io sono assolutamente, ovviamente, dispiaciuto, perché il carro armato, mettere sotto due macchine insomma con i colori del Brescia e della Roma non è elegante, diciamo così, né tantomeno il bambino che picchia i pugni contro la macchina. Detto questo, va anche detto che sono le stesse persone che 250-300 persone alla settimana fanno volontariato, danno decine di migliaia di euro ogni anno in beneficenza. Dopodiché il carro armato c'è stato tutti gli anni, non è la prima volta, perché da come aveva detto lei sembrava una cosa organizzata apposta per questa messa in scena. In realtà il carro armato è stato tutti gli anni, così come altri mezzi di trasporto. Senta, che... io le chiedo al di là dell'informazione del cavolo, che non, io ho fatto della cronaca ieri, per quanto mi riguarda, non ho fatto poi cronaca, ha detto solamente una parte come al solito. No, ma come al solito, io ho detto quello che ho visto, Carlo. Allora, non si può tenere la parte buona, che è quella della beneficenza, e far sparire la parte, secondo me, più così, non voglio chiamarla folcloristica perché non è il termine che mi viene, quella che mi viene è malata, che è quel carro armato, che è il bambino che dà i pugni sulla macchina, perché quella a me non piace, e al di là dell'informazione... del cavolo, io dico quello che vedo e dico quello che penso, soprattutto. Poi sa, è questione di gusti. Lei dice non è elegante, non lo è nemmeno secondo me. Si può evitare quella parte. Poi non voglio allargare il discorso ai tifosi del Brescia, a quello che di recente è successo con Gallo, né a quelli della Roma, né voglio fare invece del qualunquismo dicendo che non si può più andare avanti così, che fa schifo tutto, perché io non lo dico, non è vero. Ci sono delle esternazioni del pensiero da parte dei gruppi organizzati, anche qui faccio dei giri di parole clamorosi, che a me non piacciono. Avrò la libertà di dirlo o questa informazione del cavolo? Questo è il mio pensiero. Poi l'informazione è disponibile ovunque, i filmati sono disponibili ovunque, ognuno si tiene il giudizio che ne ha voglia. Salvatore da Forlì e poi ci fermiamo per la borsa. Buongiorno, grazie della convocazione. Grazie a lei di aver risposto. Io volevo fare una mia considerazione riguardo ai doping, perché allo sport ci credo. Mi ha solo snobato il calcio, che costa molto. Mi piace molto il ciclismo, però quando prendono qualcuno che non è corretto nello sport, che non è pulito, non bisogna dire 3 anni di squalifica. Metterlo da parte a vita, perché se questo, io rubo mi licenziano, questo lo condivido. Questo lo condivido, ma l'ho sempre detto, non lo condivido da oggi, perché come ho sempre detto, Salvatore, il mio pensiero è come il suo, il prezzo che si paga per aver imbrogliato forse è troppo basso, forse non è un deterrente sufficiente, forse non è una pena sufficiente per disincentivare certe pratiche, per disincentivare anche quello che può essere un affare, perché io corro, mi faccio le bombe, vinco, guadagno molti soldi, mi beccano, sto fermo un annetto e mezzo, poi se... Insomma, se sono sufficientemente giovane, torno e guadagno altri soldi. Se sono un po' anzianotto, vado in pensione con i soldi che ho guadagnato. E allora, perché non decidere di usare una pena che può essere draconiana finché si vuole, ma che è una pena in grado forse di disincentivare gli imbroglioni? Tutti convocati. Ragazzi, ecco un altro tema, se non per oggi, per i prossimi giorni certamente. Possiamo intitolarlo Fiorentina e Napoli, l'arte del sorpasso. Cosa ne dite? Perché almeno nelle suggestioni estive Fiorentina e Napoli stanno superando Milan e Inter, squadrinate. Milan e Inter sono lì, oggi pare che Isla, insomma, a Isla venga dato il benestare per il passaggio della Juventus all'Inter, manca un milione di euro, ma credo sia anche in questi tempi difficoltà superabile per l'Inter. Anche se molti di noi, me compreso, un milione di euro non li vediamo neanche in tutta la vita di lavoro. Vabbè, ma lasciamo stare. Comunque Fiorentina e Napoli sono quantomeno protagoniste dell'estate del calcio e superano Milan e Inter, che si stanno sbattendo per prendere giocatori, da una parte Isla e dall'altra quella del Milan Honda, che bravi sì, ma che non ti cambiano la vita. A Firenze arriva Gomez, a Napoli dopo Caleon e Albiol, spese shopping a Madrid, si aspetta il grande colpo. Potrebbe essere quello, dice qualcuno, di Osvaldo a prendere la maglia e il posto al centro dell'attacco di Cavani. A proposito di Osvaldo, ma cosa ha detto ieri? Te posso dire una cosa? Tu, no, io parlo apertamente, ho 58 anni, vengo da lavoro. Tu hai capito poco di Roma, perché tu potevi essere imperatore, tu potevi. Avete capito come voi. Abbiamo sbagliato noi. Che noi te da percorrere, te da abbiamo sbagliato noi. Che vuol dire? Vabbè, il contesto è quello, che cazzo volete, ho fatto 200 gol, io sono sempre, insomma, perplesso di fronte a queste chiacchierate tra giocatori e tifosi. Ognuno faccia la sua parte, quella dei giocatori quella di giocare, quella dei tifosi di comprare il biglietto normalmente, andare a vedere la partita normalmente, fare il tifo normalmente nei limiti del possibile e poi applaudire o fischiare a seconda dei gusti e andare a casa tranquilli. Questi sono i ruoli che spesso, soprattutto nelle nostre parti, vengono amabilmente, ed è chiaro che l'uso di questo aggettivo, confusi. Luca da Treviso. Sì, buongiorno, grazie alla convocazione. A lei. Io non seguo assolutamente, quando posso seguo la vostra trasmissione. Volevo solamente dire, avete mai sentito qualche preparatore atletico di ultima generazione in riferimento alla prestazione di questi ciclisti di questa epoca? Sì, perché? Ecco. Abbiamo sentito preparatori atletici, fisiologi, ecco, dietologi, no, medici, donati, esperti antidoping, tutto il mondo abbiamo sentito. Poi okay, ci restano le nostre sensazioni, dica. No, perché certe prestazioni, secondo me, per periodi così brevi di tempo si possono raggiungere anche senza doping, sperando sempre che non ci sia, voglio dire. Questa è la mia considerazione. Cioè lei dice che quello che ha fatto Froome si può raggiungere con l'allenamento normalmente senza, senza ricorrere a, ad altre sostanze. Lei dice sono un ex ciclista, ex direttore sportivo, e secondo me attualmente, io è da un po' che sono fuori per motivi di lavoro, ma comunque secondo me certi risultati limitati nel tempo si possono avere. Se poi questo inizia a febbraio e finisce a dicembre con queste prestazione mi viene un po' puzza sotto il naso, però per periodi brevi secondo me con le nuove metodologie, diete e via dicendo si possono raggiungere. Sì Luca, io sono d'accordo, poi mi lasci il mio stupore, non la mia perplessità, perché insomma nel vedere From l'altro giorno a me onestamente i sospetti non sono venuti. Poi è chiaro che dal punto di vista, diciamo così, legalistico, io credo nella presunzione di non colpevolezza, in tutto quello che vuole lei, però come amante viscerale dello sport, la storia recente, tutte quelle croci nere sull'albo d'oro del Tour de France sono coltellate, e quindi il sospetto è legittimo e autorizzato. Poi si vanno a leggere i tempi, di quella scalata, si vanno a leggere le medie della cronometro a squadre, e santi Dio, lasciatemi il mio sospetto, che magari è anche il vostro, perché insomma Froome si è difeso, io ho lavorato, vogliamo credergli, è bellissimo credergli, vorremmo celebrare la sua impresa magari anche perdendoci nell'enfasi, ma sinceramente non abbiamo tanta voglia oggi, poi vediamo. Poi contiamo anche le vittorie, una vittoria al primo anno da professionista, zero l'anno successivo, poi una l'anno dopo, poi un'altra l'anno dopo, insomma vittoria con contagocce quest'anno 11, 13, non ricordo quante, è un percorso da dominatore. Vabbè, Nicolò Modena, buongiorno. Salve signor Carlo, saluto da motociclista, spero che si riprenda presto. Lo accetto volentieri. Anche perché anch'io ho fatto un incidente e so cosa vuol dire. Ma sì, sono tacche sulla cintura, no? Quando si può raccontare. Sì, esatto. Niente, io volevo lanciare una provocazione. Quella che vuole. Io, secondo me, a questo punto, visto il doping che c'è in giro, per certi sport sarebbe giusto fare come bodybuilding. Fare quelli dopati facciano la loro gara, quelli che invece con fatica e sudore si preparano per fare le gare, che abbiano la libertà di giocarsela alla pari con gli altri. Sì, quindi lei dice doping libero per i professionisti, per tradurla in tre parole. No, io dico due categorie a parte, e poi sarebbe anche curioso vedere quelli che si drogano e quelli che no, quelli che prendono le bombe e quelli che no. Esatto, come c'è nel bodybuilding. A me vengono i brividi, se devo dire la verità. Cioè, andiamo a vedere la gara dei tossici. No, non ci sto, Nicolò. O diciamo in maniera molto dura, in maniera molto crudele, liberalizziamo lo sport per i professionisti. Sono cose che sono state anche dette. E allora quelli che fanno dello show, fanno del business, fanno... metteteci le parole inglesi che volete, o anche quelle italiane, quelli che fanno spettacolo, quelli che fanno affari, quelli che fanno i soldi, il mondo degli sponsor, le televisioni, le Olimpiadi, che sono il più grande affare economico attualmente esistente, e allora quelli li lasciamo stare e facciano pure le loro pratiche monitorati dai medici, sotto sorveglianza eccetera, e spendiamo tutte le risorse per stanare quelli che ovviamente non usano pratiche così sofisticate, non usano pratiche così costose, e quelli li inchiodiamo e li mandiamo in prigione, giovani o genitori dei giovani compresi. Beh, questa può essere una prospettiva, ma due categorie, guardiamo le Olimpiadi di quelli che si fanno le bombe e guardiamo le Olimpiadi di quelli puliti, vabbè, lì mi sembra abbastanza un film di fantascienza da notte fonda, da ore a luci rosse. 800 24 00 24. È sempre un piacere sentire il mio amico Filippo Maria Ricci dalla Spagna, from Spain. Ciao Filippo. Buenas tardes. Tarde anche a te. Allora, visto che oggi parliamo di sensazioni personali, dimmi la tua vedendo Carletto Ancelotti e Zinedine Zidane sullo stesso campo a Valdebebas, a centro allenamento del Real? Fa impressione, perché eravamo abituati a vedere Caranca e adesso c'è Zidane, eh? E già con questo mi sembra di avertire. Anche qui siamo all'effetto, cromatico. Cioè, allora, perché voglio dire, Zidane è un tipo strano, sto Zinedine, perché probabilmente non aveva voglia, coraggio, non so, di fare allenatore, e decide di entrare in campo. Non so, poteva farsi dare il Real Madrid Castiglia, no? Come ha fatto Guardiola col Barça B, e cominciare da lì. Ma no, lui comincia come assistente, insomma, è un assistente ingombrante, non è mica un assistente qualsiasi. Sì. E quindi vediamo, sensazioni positive, cioè, poi abbiamo visto un allenamento e mezzo, però in generale il problema è che qui dopo 3 anni di bufera anche il più guerrafondaio ha bisogno di respirare, e quindi adesso si cerca di respirare. Poi la squadra è eccezionale, perché la rosa per me della Madrid deve essere eccezionale, anche con questi ritocchi, la non ingiovanita, spagnolizzata, e poi si vedrà. Io tanto il campionato te lo giochi solo contro il Barcellona, un Barcellona, sì, che vedo ovviamente rinforzato dall'arrivo di Neymar, tecnicamente, però poi bisogna vedere sul piano pratico la convivenza tra Neymar e Messi. Per me è il grande punto interrogativo di questa stagione del Barcellona. E poi è un Barcellona molto agitato a livello, tra virgolette, sociopolitico. Sì. Ecco, io di questo, Filippo, ti fermo un attimo perché c'è il traffico, però di questo vorrei parlare anche con te. Insomma, una delle cose più squallide dell'estate, lo dicevo l'altro giorno, prima che scoppiasse questa bufera di sospetti sul doping, eccetera, una delle cose più squallide dell'estate è stato proprio la... così questo battibecco a distanza tra Guardiola, hanno usato la malattia di Villanueva per darmi fastidio, per denigrarmi, e poi Rosell che oggi risponde, come scrivi tu sulla Gazzetta, dicendo non è vero, ma che cosa stai dicendo, vecchio Pepa amico mio? Tutti convocati. 800 24 00 24 per intervenire a tutti convocati in onda ogni giorno dalle 14 alle 15 per tutta estate. 349 238 6666 per i vostri messaggi SMS. Dunque, caro Filippo Mariarici dalla Spagna, dicevo l'altro giorno che le due, fino a 3 giorni fa, dicevo che le due cose più squallide dell'estate erano state la pipì addosso a Cavendish al Tour de France e questa dialettica un po' violenta, un po' meschina tra il Barcellona e Pep Guardiola. Adesso che succede? Ma allora, oggi ha risposto anche Villanova, dice che Guardiola ha sbagliato a dire quello che, le cose che ha detto. Ma cosa succede? Succede che c'era un'amicizia che andava indietro all'adolescenza, perché Pep e Tito sono cresciuti insieme, no, nella cantera del Barça, c'avevano il club dei golosi insieme ad altri membri di quel Barça giovanile, e adesso più o meno non si parlano più. Allora, che non ci vengano a dire qualcosa è successo, che ci sia di mezzo il Barça, Rosell e i suoi dirigenti, o che semplicemente i rapporti tra due amici siano andati a quel paese, però comunque non è una bella storia, soprattutto se uno poi pensa che comunque è un momento iperdelicato della vita di Villanova, no? Con il cancro e tutto, non lo so. Io, come spesso succede a Barcellona e in Catalogna, le cose non sono esattamente trasparenti, c'è sempre un po' di amarezza, un po' di non lo so, questa è un po' la situazione, per cui io sono anche curioso di vedere come andrà questa nuova, diciamo, stagione del Barça, e chiudo aggiungendo anche un'altra cosa, tattica. Hanno venduto David Villa, cioè regalato David Villa, non hanno più un centravanti, che uno, cioè c'è Messi, poi hanno Neymar e poi hanno, sì, Pedro, Teio e Alexis Sanchez. Sì. È chiaro che con questi teoricamente già ti basta e ti avanza, però non c'è un piano B, al momento, a meno che non prendano centravanti, ma non mi sembra che lo facciano. Ma sai, mi viene in mente Schumacher e la seconda guida, no? Cioè il Barcellona ha una prima guida che è Messi centravanti o centravanti tattico, quello che vuoi tu, prima stella, prima punta, eccetera. E si gioca così, la seconda guida, cioè la seconda opzione, cioè il piano B, cioè una punta vera, non è più contemplata dal Barcellona. Beh, mi sembra che sia così, no? Quindi sì, si va con questi e troviamo la chimica. Sì, no, voglio dire, meglio fare con questi che farlo con Cantarutti e Garlini, no? Però voglio dire... bella sta situazione. Da dove li hai tirati fuori Cantarutti e Garlini? Da che anni? Che cassetto della memoria li hai tirati fuori? No, io me li ricordo bene, io. Però, voglio dire, è un po' te la rischi, perché abbiamo visto che, soprattutto in Europa sto parlando, perché poi sai, in Spagna per battere l'Almeria vuol dire, non è che ci vuole troppo. Però sono curioso di vedere così. E poi comunque, tutto questo... uno pensa, no, l'arrivo di Neymar, se Neymar farà molto bene, per far bene dovrà togliere qualcosina a Messi, perché è impossibile che i due, no, facciano 50 gol a testa come sta succedendo nelle ultime stagioni per Messi, per cui vediamo come incassa il piccolo re argentino un'eventuale crescita di Neymar. Così, per cui io penso, tornando un po' da qui, perché siamo partiti poi da Real Madrid, io penso che Ancelotti abbia una grandissima occasione, sì, veramente una grandissima occasione, per vincere la Liga ovviamente, che però è già un obiettivo importante, ma anche poi per la Champions e in generale di potersi affermare, cioè di completare l'opera iniziata da Mourinho. Ed è inutile far finta che noi non tifiamo per lui. È inutile far finta di... Io lo dichiaro, lo dichiaro. Anch'io lo dichiaro, ma io dichiaro, ma pubblicamente lo grido, cioè con la bandiera fuori. Come ho tifato per Capello, voglio dire, io al... Cioè, meno. No, il Real Capello è esaltante, perché era una squadra rinviata, piena di problemi, che andava contro una corazzata con il Barcellona campione d'Europa, era divertente, questa soffrivano, rischiavano di perdere con chiunque, io mi sono divertito un sacco quella stagione lì. Sì, ma io facevo meno tifo, ma per questioni così, no, di simpatia. E quindi così, guarda, l'unica incognita può essere eventualmente per il Real Madrid la convivenza tra Ancelotti e Zidane, che vediamo, ti dico, avere un secondo come Zidane è molto, e poi sì, è impegnativo, ti capisco, è un triangolo, perché poi c'è questo Paul Clement che ieri ho visto, cioè dirigeva lui l'allenamento, e per cui Ancelotti ha due vice, non uno. E vediamo come va. Qua bisogna trovare una chimica tra questi tre, un italiano, un inglese e un francese, è un po' come le barzellette, e se si trova la chimica c'è uno squadrone. E chiudo solo, va comunque risolto prima di Cristiano Ronaldo, che non lo possono lasciare con due anni di contratto senza rinnovarglielo, questo è un altro tema, poi magari ne riparleremo nel corso. Alla prossima puntata, no? Perché non va bene. I gialli non si svelano tutti in un colpo. Appuntamento alla prossima puntata per il rinnovo di Cristiano Ronaldo, che è un altro tema interessante, no? Mi sembra un altro tema interessante, al di là della convivenza con Zidane, che io compagno di panchina, non farei, insomma, fossi Ancelotti avrei paura della sua ombra, però Ancelotti ha una tale intelligenza pratica, un tale pragmatismo, un tale senso anche dell'ironia, se vogliamo, nel calcio, che è in grado di esorcizzare anche questo fantasma. Intelligenza tout court, cioè Ancelotti è una persona intelligente, sa benissimo dove è, adesso, ma anche Zidane è un po', tra virgolette, alla ricerca di se stesso, se vogliamo, perché cioè Zidane è arrivato tutti questi anni, cioè lui ha smesso di giocare ormai 7 anni fa, cosa ha fatto in questi 7 anni? Non lo sa forse neanche lui, cioè ci ha messo 7 anni per decidere di andare a fare l'assistente. Sì, è vero, tipo vero. Particolare anche Zinedine. Gesù è sempre stato così, ma è per questo che, cioè, è un altro personaggio che rientra nella galleria dei miei preferiti. Anche lui, spugniamoci pure. Vediamo come, cioè sono tante le... anche Zidane è un uomo alla ricerca di se stesso, e l'altro giorno nell'intervista, no, rara intervista che fa all'Equipe Magazine, lui ha detto, ha sparato contro Mourinho dicendo che con lui non voleva lavorare, dice adesso è arrivata una persona dalla quale posso apprendere, mi piace com'è, voglio vedere come lavora, cioè è uno che così teoricamente è ancora nella sua ricerca. Sì, sta cercando se stesso, è alla ricerca di se stesso, manca il viaggio in India, mettiamola in questo modo, dopo aver visto le immagini che sono arrivate dal Vietnam con il tifoso dell'Arsenal che ha inseguito per 5 km il pullman, alla fine è stato fatto salire a bordo, gli hanno firmato le magliette, gli ha fatto le foto con i giocatori, eccetera. Guardatela perché è imperdibile. Filippo, ti ringrazio, ci sentiamo alla prossima. Ciao Filippo Maria Ricci. Io oggi chiudo con due ascoltatori che sono già in linea, ho un paio di minuti, quindi uno a testa. Gianpaolo Ascoli Piceno. Sì, pronto? Pronto, eccoci. Sì, buongiorno. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Mi volevo chiedere una cosa a proposito del doping sul ciclismo, ma in generale su tutti gli sport. Ma in un settore così pieno di interessi economici, siamo ancora alle analisi delle urine e l'analisi al limite del sangue, quando esistono esami molto più approfonditi per scoprire se un atleta ha fatto uso di steroidi anabolizzanti. Ad esempio il mineralogramma, che è un esame che risale fino a 6 mesi prima, dove si capisce se l'atleta ha preso qualsiasi cosa. Perché non lo fanno? Gianpaolo, come abbiamo detto molte volte, l'antidoping è purtroppo qualche passo indietro rispetto al doping, e questa è cronaca, questa è storia recente, questo lo sappiamo, è un dato di fatto. Però devo dire che anche dal punto di vista dell'antidoping tanti passi avanti sono stati fatti, tant'è vero che insomma quelle provette che hanno inchiodato Lance Armstrong nelle sue responsabilità sono storia vecchia, sono reperti conservati, sono prove che sono state lì per molto tempo, e c'è questo revisionismo intorno allo sport e al ciclismo che sta portando ad un terremoto incredibile e anche se volete inaccettabile nell'albo d'oro delle più grandi manifestazioni del mondo. Mi sa che dobbiamo chiudere qui, ragazzi. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 2 e fino alle 3, o se preferite dopo il GR delle 14 e fino alle 15. Grazie a Franco Piantanini, autore di questo programma, Gianmarco Ferronato in regia. Ciao a tutti.